passiamo subito, chiedo scusa perché verrebbe voglia sempre di sostare sui temi di ciascuna relazione, ma dobbiamo stamattina curare in modo particolare i tempi. Con le ultime tre relazioni, e quindi con questa di Simplicio, passiamo all'ultima, l'ultimo settore, non so, di interessi, insomma, che sulle visite pastorali, ecco, quello che riguarda un po' le strutture comportamentali, le strutture morali, le strutture mentali, insomma, ecco, le ultime tre relazioni saranno, penso, abbastanza centrate su questo. Ecco. E quindi un altro enorme campo, insomma, ecco, che si apre davanti ai nostri interessi. Voglio solo sottolineare che i presenti hanno della relazione Simplicio una versione già di ben 14 pagine. Io sono grato a lui perché avere il testo scritto è già una facilitazione enorme, insomma, ecco, che non ci toglie però il piacere di sentire da lui la relazione. La costruzione della moralità, penitenti e confessori nell'antico stato senese, secoli XVII-XVIII. Dico solo che, poi finisco subito, ecco, il desiderio di conoscerci meglio è venuto proprio dalla lettura del suo libro nel 94, insomma, sul peccato e i peccatori nella Siena, peccato, penitenza, perdono, e quindi siamo felicissimi appunto di poter arrivare a questo incontro. La connessione con le visite pastorali del tema di cui tratto è obliqua, tuttavia è di tutta evidenza. Basta pensare alla visita apostolica di Bossi del 75 o alla visita pastorale di Tarugi del 98 per vedere l'attenzione che essi dedicano alla visita personale dei parroci, per vedere la preparazione personale che possano avere per esercitare il sacramento della confessione o con quanta acribia contino i confessionali presenti nelle chiese della città e della diocesi. Devo menzionare un antefatto. Anni fa, lavorando su fonti giudiziarie laiche ed ecclesiastiche, utilizzando un approccio interpretativo che si è sviluppato in Germania e poi potenziato anche qui a Trento del disciplinamento sociale e della confessionalizzazione, io sentivo il disagio che qualcosa mi sfuggiva, cioè che il meccanismo della coercizione esercitata attraverso la legge non riusciva a spiegarmi, o perlomeno mi lasciava insoddisfatto per capire e comprendere non tanto il disciplinamento, ma quanto questo graduale passaggio all'obbedienza alla gerarchia dei fedeli. Questo è l'antefatto, e il mio libro sostanzialmente è stato scritto senza poter risolvere questo disagio che queste fonti che prevaricano il ricercatore, le fonti giudiziarie, lasciano. A questo antefatto è seguito un rapido evento di cui tratterò nella relazione che adesso incomincio rapidamente a leggere per rispettare i tempi di chi mi ha preceduto. E cioè, non più di un anno fa, io sono venuto a conoscenza dell'esistenza non più fantasmatica dell'archivio dell'Inquisizione senese, che permette, così ipotizzo in questo articolo, probabilmente di entrare con i piedi all'interno di qualcosa di impalpabile rispetto soprattutto a cose concrete dei precedenti relatori, come il meccanismo della formazione della coscienza e della moralità. Mi scuso di leggere, ma per rispettare i tempi bisogna che lo faccia. Definizione. In antico regime il lemma moralità possedeva una gamma di significati che riguardavano il comportamento generale del buon cristiano in una comunità. La personalità degli individui veniva definita sulla base del loro contegno nella famiglia, nel lavoro, nei gruppi giovanili, nei rapporti di vicinato, nella pratica del culto. In questo contributo intendo tuttavia il lemma in una sua accezione restrittiva, oggi corrente. Moralità significherà in questo saggio, cito dal Battaglia, pubblica decenza, buon costume. La parola sarà sostanzialmente sinonimo di comportamento sessuale privato o pubblico. La teoria del domino, questa è una formulazione che ho trovato in due studiosi, una studiosa Cynthia Herup, inglese, e una studiosa americana che ha lavorato di recente su Sexuality, State and Civil Society in Germany 1700-1815, un libro molto bello di Isabel Hull. E entrambe parlano della teoria del domino con riferimento a questo problema della moralità. In effetti, la restrizione del campo semantico operata sul lemma moralità sarebbe risultata arbitraria alle popolazioni di fedeli cristiani nei primi secoli dell'età moderna. Nell'intera Europa riformata e cattolica vigeva una concezione dell'essenza dell'uomo tesa a vedere il significato della sua presenza sulla terra come una lotta continua contro il peccato. Tutti i vizi erano di natura simile e una grande solidarietà teneva unite le azioni peccaminose, facendo ascendere grado per grado l'uomo da una trasgressione a un'altra più grande. Inevitabile conseguenza di questa concezione della natura umana era che una condotta sessuale contraria alle leggi e ai costumi avrebbe diffuso un generale disordine e sconvolgimento nell'intero ambiente sociale. In definitiva, i costumi sessualmente dissoluti venivano indicati come una reale minaccia per lo Stato e le sue strutture fondanti, tra le quali primeggiava la famiglia. Interesse fondamentale degli Stati assoluti di antico regime era proteggere la famiglia, salvaguardarne i sistemi di valori e le gerarchie. La politica, tra i suoi obiettivi primari, mirava a imporre l'osservanza di norme sessuali che proteggessero l'istituzione del matrimonio, l'intero ventaglio delle leggi, delle disposizioni di leggi che in Europa sanzioneranno i rei di crimini sessuali, ne avevano come principio ispiratore la difesa del matrimonio. La tutela del matrimonio trovava in definitiva solidali le popolazioni dell'Europa cristiana. Intorno all'istituzione ruotava l'organizzazione della vita economica e sociale delle comunità. Il formarsi di nuovi parentadi giungeva come esito della costituzione da parte delle famiglie di basi materiali e proprietarie. Era inevitabile che gli sponsali imponessero un monopolio concettuale e di indirizzo della vita sessuale. Sebbene momento cruciale della biografia di ogni individuo, la sessualità, nella sua versione lecita, era in effetti inserita nel complesso sistema della matrimonialità del tempo e, in sostanza, finiva col risultare appannaggio e privilegio di coloro che per condizioni economiche e sociali vantaggiose erano destinati a sposarsi. Lo Stato non figurava certamente come il solo controllore del comportamento sessuale degli individui. Se ne occupavano assai più e assai meglio la famiglia, la comunità, le associazioni giovanili, le corporazioni, che per la stretta vicinanza con gli attori sociali erano depositari di una capacità di indirizzo e di controllo seconde a nessuna struttura di potere. Le modalità attraverso le quali queste istituzioni sociali tradizionali esercitavano il controllo sulla vita sessuale delle persone non è oggetto di quanto adesso vi dico. Interessa qui discutere del controllo che la Chiesa esercitò sulla costruzione della moralità, nell'accezione da me intesa, attraverso i suoi tribunali e il sacramento della confessione. Mi soffermerò qui in dettaglio sulla confessione auricolare, che per l'incisiva trasformazione subita dopo il Concilio Tridentino sarà destinata a influenzare potentemente la formazione delle coscienze individuali. Nel corso di una recente indagine, come vi dicevo, sul processo di confessionalizzazione nell'antico Stato senese, era inevitabile constatare che la presenza della confessione auricolare aleggiava pesantemente sulle mie fonti, senza tuttavia materializzarsi in informazioni e fatti concretamente utilizzabili. Il risultato, anche in questa ricerca, come in altre nella mia ricerca, come in altre specificatamente dedicate allo studio del sacramento della confessione, non poteva essere diverso. Cioè, sul momento fondante della moralità di generazioni di cattolici, le ricostruzioni degli storici continuano a essere inconsistenti. La pratica effettiva dei confessori e dei penitenti permane un territorio in gran parte sconosciuto. Da questo stato di cose dobbiamo derivare una generale pessimistica conclusione e sentenziare la non fattibilità di ricerche sul tema. Se per esempio, come è stato osservato da Philippe Boutry, risulta indubbio che l'entretien pénitentiel è, pour la recherche historique, le lien par excellence des mystères de la religion, ritengo non di meno che si possa tentare di attenuare l'ovvio pessimismo di tale conclusione. Vale la pena, cioè, a mio avviso, di accettare una proposta interpretativa avanzata da Heinz Schilling nel convegno diretto dal professor Prodi e poi ripubblicato in Disciplina dell'Anima, la proposta interpretativa appunto di Schilling è di valutare se, cito, non possano essere portate alla luce fonti e strumenti di ricerca e di rilevazione in grado di sostenere su di una base solida le ipotesi sugli effetti e le conseguenze di lungo periodo della confessione auricolare. Sostanzialmente io vi propongo uno scenario del seguente tipo. Lo scenario evidentemente è quello mio che conosco, senese. La Chiesa Cattolica, imponendo ai fedeli la propria autorità, contribuì fortemente allo sviluppo delle loro coscienze individuali. Il penitente doveva arrivare al sacramento della confessione già disciplinato attraverso una preparazione che prevedeva un accurato esame di coscienza. Questo tirocinio regolare e ripetuto di scavare dentro se stessi significò che la responsabilità della scoperta del peccato e del mantenimento di una coscienza monda finiva col ricadere sull'individuo stesso. In sostanza, la sorveglianza e le imposizioni della gerarchia ecclesiastica finirono col generare un autocontrollo. Se le proposte interpretative da me avanzate sulla formazione della coscienza e la costruzione della moralità risultano corrette, uno dei risultati principali del radicamento della parrocchia nella città e diocesi senese nel corso del XVII secolo fu il conformarsi rapido della popolazione alle nuove disposizioni della Chiesa tridentina in materia di matrimonio. La pratica popolare del consensus facit nuptias sembra definitivamente abbandonata nei territori dello Stato Nuovo Medicio già con la prima metà del secolo XVII. Nei quadri stabili del mondo dei ceti inferiori, contadini appoderati e artigianato urbano, si potenziò la norma che le frequentazioni presponsalicie dovessero essere estremamente sorvegliate dai genitori perché le giovani spose dovevano arrivare caste alle nozze. La Chiesa legò a sé gli individui con procedure totalizzanti. La condanna e la repressione della fornicazione semplice, la sorveglianza, il biasimo e la censura di qualunque forma di frequentazione tra uomini e donne che lasciassero sospettare il concubinato, il sostegno, come detto, per una casta concezione degli sponsali del futuro, la lotta contro la prostituzione condotta sostenendo una politica di confinamento spaziale del vizio, furono tutte queste misure che assunsero una fisionomia sempre più netta fino a rivestire la forma di una vera e propria, cito qui Alain Besançon, occupation idéologique, con cui la Chiesa Cattolica radicò la sua concezione della moralità. Voglio dire, la citazione di Besançon viene da un saggio sull'Empire russe e la domination sovietique. Una definitiva visione del rapporto tra i generi lasciata in eredità, questa, alle generazioni future. pilastro dell'atteggiamento morale dei ceti medi e medio-bassi nel secolo XIX e oltre. Appare non di meno doverosa una precisazione, cui in precedenza ho accennato. A delineare questo scenario sono arrivato mettendo l'accento sul fattore della forza coercitiva della legge, del giudiziario. La vigilanza e la repressione congiunte delle autorità ecclesiastiche e laiche riuscirono a generare e mantenere attiva nell'ambiente umano una spirale virtuosa, facendo leva su di un clero secolare curato, addomesticato e moralizzato. Vennero mortificati anche i fedeli indifferenti ed emarginate le trasgressioni residuali di poche voci discordi. Per quanto risolutivo debba essere ritenuto il fenomeno della coercizione dall'alto nell'indirizzare le coscienze verso definiti orientamenti etici, appare indiscussa che la sola forza, come ho già detto, pur con la sua pervasiva capacità di incidere sulle trasformazioni sociali e istituzionali dei primi secoli dell'età moderna, non basta a spiegare i profondi mutamenti di mentalità. E vorrei qui fare riferimento a un accenno fatto in apertura di convegno dal professor Ziegler nel dire come anche questa tesi della coercizione dall'alto è accettata a volte con una certa reticenza in Germania, perché si fa presente che la spinta a volte veniva anche dal basso. Le stesse fonti senesi, ad esempio, mostrano che i fedeli nel quartiere e nel villaggio prendono provvedimenti di moral cleansing senza attendere o necessitare una forte sollecitazione del potere ecclesiastico e o laico. Si tratta di iniziative moralizzatrici che vengono dal basso, appunto, direttamente dai maggiorenti del quartiere e del villaggio, e vanno forse intese come la punta emergente di una mutazione, testimone del passaggio dall'incertezza o indifferenza al convincimento. Tutti i dati statistici relativi alla diocesi senese documentano in effetti un drastico contrarsi dell'attività inquisitoriale del tribunale diocesano con la metà del 600. Nell'andamento delle denunce dei renitenti alla Pasqua, il giudice cede ormai il passo al confessore. In primo luogo, la pratica sociale della confessione, tuttavia, nei primi secoli dell'età moderna rimane ardua da costruire. Sfugge il profilo sociologico dei protagonisti. Quale l'istruzione formale dei confessori? Quale la loro cultura? I libri che possedevano ed eventualmente leggevano? Quale di conseguenza la loro tecnica di confessione? È ancora più sporgente l'identità dei fedeli, uomini e donne, in che proporzione, per quali fasce di età e ceto di appartenenza e con quale frequenza ricorrevano al sacramento. Privi del sostegno dei fatti, il procedimento degli storici non può che continuare ad essere congetturale. Di recente Adriano Prosperi, sempre nel volume citato Disciplina dell'anima, si è chiesto: la diffusione del sacramento non si dovette, cito, alla capacità mostrata da una nuova scuola di confessori di trasformarsi in medici di anime malate e di psicologie tormentate? Quindi un nuovo tipo di confessori, una psicologia tormentata nei fedeli. Sono questi esattamente i due interrogativi che nella sostanza riassumono, per me o nella mia proposta, i problemi da affrontare per cercare di giungere a una storia sociale della confessione. Le possibilità di accrescere le nostre conoscenze fattuali della confessione auricolare dipendono, a mio avviso, dalle opportunità oggettive di ricostruire l'atmosfera confessionale di un ambiente umano ben circoscritto. La natura del rapporto tra penitente e confessore viene adeguatamente espressa da un campo dinamico di cui non è impossibile delineare i tratti salienti e l'intensità. Vorrei dire che Philippe Boutry, nella tesi Prêtre et paroisse du curé d'art, ha definito in maniera eccellente cosa possa essere un campo dinamico che si stabilisce fra confessore e penitente. Rapidamente adesso, insomma, confessori, sto cercando di definire il campo dinamico senese. Confessori, qualcosa intravediamo, che cosa possiamo intravedere? Che almeno per la generazione dei confessori attiva fino alle prime decadi del Seicento, il tipo di know-how, il tipo di orientamento tecnico, professionale, poteva essere quello di interrogare in specie il fedele. Pochissimo sappiamo, ancor meno probabilmente sappiamo sui penitenti. Anche qui la mia congettura è che da frammenti sparsi l'ansia, questo tormento cui faceva riferimento Prosperi, sembra che abbia generato un bisogno di essere interrogati in dettaglio. L'atmosfera generale invece a me pare di averla ricostruita, il quadro è delineato nei tratti salienti, le ipotesi che avanzeremo sulla sensibilizzazione delle coscienze dei fedeli devoti non risultano a mio avviso implausibili. Come ho accennato in precedenza, è attestata grosso modo negli anni dal 590 al 1650 una vera campagna moralizzatrice diretta dall'alto che spinge alla delazione dei peccatori. Coppie di conviventi, coniugi separati, femmine sospette di praticare meretricio clandestino, prostitute scandalose, fedesi non confessi e o non comunicati. Questo tipo di caccia alle streghe assume ad intervalli irregolari nell'ambiente umano senese ampie dimensioni e soprattutto tratti patologici comprensibili soltanto nel contesto, a mio avviso, di una irrequietezza morbosa. L'arcivescovo con i suoi editti, i parroci nei sermoni, nel catechismo e, presumo, nel confessionale, rammentano, cito dal Granada, dell'odio che ha il Dio contro il peccato, fornendo l'input, su questo punto insisto nel saggio, che tormenta l'animo dei fedeli, l'imprigionamento dei concubini e delle mogli che abbandonano il tetto coniugale, la severità dei richiami per accertare lo stato libero degli sposi, la fermezza nel respingere le richieste del divorzium, sono misure tra loro collegate a difesa del matrimonio tridentino, determinano una morale cattolica. Non colpirà nel segno lo storico, ipotizzando che in questo specifico contesto fossero il sesto e il nono comandamento che maggiormente angustiarono le coscienze dei fedeli? L'input creato dalla gerarchia ecclesiastica originava quindi, nella mia ipotesi, un campo dinamico tra penitente e confessore in cui l'identità del devoto cristiano viene prevalentemente definita dall'ortodossia della sua condotta morale, cioè sessuale. Se la ricostruzione della qualità e intensità di un campo dinamico, soprattutto in situazioni di emergenza morale, rientra tra le possibilità dello storico, la conoscenza di ciò che realmente avveniva all'interno del confessionale non potrà che essere oggetto di congettura. Anche se, sostengo, non appare impossibile cercare di accrescere la plausibilità delle ipotesi formulate, ricorrendo a altre fonti documentarie e, come in maniera un po' ardita e, oimè, attaccabile, immagino, al ragionamento analogico. Devo dire di essere rimasto fortemente impressionato dalla lettura di un lavoro francese di Martin Sévégrand, L'amour en toutes lettres, questione l'abbé Violet sur la sexualité, 1924-1943. Si tratta sostanzialmente di una pubblicazione di carteggi editi ed inediti, che mi ha colpito proprio nel tentativo di organizzare, dare una struttura e una griglia di lettura a un materiale eccezionale di cui più avanti vi parlerò. Quindi ragionamento analogico. cioè tentativo di esaminare un altro campo dinamico. Abbiamo visto un campo dinamico senese che si stabilisce, io adesso voglio parlarvi di un campo dinamico che si stabilisce, secondo me, in Francia, secondo questo libro che leggo, in Francia. Negli anni tra le due guerre mondiali la Chiesa Cattolica, con vigore rinnovato, cercò di imporre la propria ortodossia in materia di sessualità. In Francia un prete della diocesi di Parigi, l'abate Jean Viollet, fondò l'Association du Mariage Chrétien, il cui primo bulletin uscì nel 1918. Dopo un rodaggio iniziale, intorno circa al 23, la rivista comincia ad avere una buona diffusione, in particolare tra una minoranza di ferventi affiliati all'Azione Cattolica. Oltre la cerchia degli abbonati, l'abate Viollet e l'Association du Mariage Chrétien esercitarono notevole influenza con numerose pubblicazioni. Nell'inizio del 1931 la pubblicazione dell'enciclica Castico Nubi sul matrimonio cristiano apparve come una sorta di consacrazione dell'opera intrapresa dall'abate Viollet e dalla sua rivista, e quindi le influenze che si sviluppò soprattutto negli anni 30. A più riprese l'abate Viollet aprì dei dibattiti esplosivi su tematiche sessuali estremamente delicate. La castità, tanto esaltata dalla Chiesa, fino a che punto vincolava gli sposi? Null'altro era permesso oltre l'unione sessuale destinata alla procreazione? E le carezze tra fidanzati di che natura devono essere? I baci sulla bocca sono essenzialmente sensuali e pertanto condannabili? E quando in famiglie disagiate e numerose è contrasto fra i coniugi sul ricorso alla frode, il coitus interruptus, come regolarsi di fronte all'obbligo del debito coniugale? E la nuova tecnica contraccettiva che comincia a diffondersi in Francia negli anni 30, cioè il metodo Ginocnaus, non permette di servirsi del matrimonio aggirandone la finalità prima, la procreazione? Questo epistolario mi ha messo a disagio. Perché? Perché non si tratta di esercitazioni retoriche che hanno luogo, che avevano luogo nelle simulazioni tipiche delle conferenze vicarie o sui casi di coscienza, e qui non si tratta di avere di fronte le disputazioni se di un Sanchez. Qui, a mio avviso, lo storico vede scorrersi sotto gli occhi il testo trascritto di confessioni auricolari. Non diversamente, quindi, dalla situazione italiana senese seicentesca, l'input fornito dalla campagna pedagogica e moraleggiante dell'abate Viollet origina un campo dinamico in cui i corrispondenti francesi e il direttore del bulletin impersonificano rispettivamente penitenti e confessore. Gli spunti da prendere da questo materiale eccezionale sarebbero molti, ne ho raccolti soltanto un paio. Le lettere testimoniano, nello stesso tempo, sorprendente preparazione e disarmante ignoranza in materia di dottrina della Chiesa sulla sessualità. Lasciano intravedere, cioè, variazioni di campi dinamici tra penitenti e confessori. In alcuni casi gli stessi corrispondenti del Viollet interpretano queste variazioni dando una risposta al nostro quesito. Scrivono del perché non hanno fiducia nel loro confessore, lo ritengono troppo legato all'ambiente sociale con cui essi appartengono, o del tutto impreparato, troppo giovane per cimentarsi con tematiche tanto delicate e personali, ammettendo a volte, come detto, della loro totale ignoranza in materia di sessualità, secondo la dottrina cattolica. Alcuni sposi, con il loro sovraccarico di turbamenti, ci portano direttamente al cuore del problema che interessa qui discutere. La costruzione della moralità, cioè il formarsi e radicarsi di un comportamento etico in materia di rapporto tra i sessi attraverso la confessione e la guida spirituale, su quale contenuto di informazioni fornite ai fidanzati e alle coppie sposate si basava? Le reazioni generate dalla campagna della Chiesa Cattolica e delle successive iniziative di Viollet confermano su di un piano generale l'esistenza in effetti di un campo dinamico inerte. L'abate Viollet rompe un grande silenzio che apparentemente gravava da tempo nei confessionali in materia di sesto e nono comandamento. Ma in quale momento i due protagonisti nel confessionale avevano cominciato a farsi reticenti e indipendente da cosa? Può la ricerca storica individuare possibili fasi di mutamento e in questi casi quale contenuto formativo nel senso di una costruzione della moralità, assunse la confessione allora. Tornerò in conclusione sul punto. Vorrei saltare alcune parti per entrare nel merito. Questa successione di interrogativi può essere disarmante per l'uditorio ed è molto più disarmante per lo storico, ma questa successione di interrogativi per l'evento cui in precedenza io vi accennavo potrebbe essere risolta anche positivamente. Perché? Perché siamo fortunatamente a conoscenza dell'esistenza dell'archivio dell'Inquisizione francese, in cui ci sono sostanzialmente due secoli di Inquisizione senese, in cui ci sono sostanzialmente presenti due secoli di storia parallela della città. Io non riterei ipotesi azzardata sostenere che una consistente parte dei processi inquisitoriali senesi si occupino in effetti delle sollecitazioni in confessionale. Questo un banale calcolo statistico fatto per esempio di recente da Betancourt nell'Inquisizione all'epoca moderna ci fa vedere che grosso modo, almeno negli archivi dell'Inquisizione italiani ancora presenti e studiati, una percentuale standard è sempre presente dei processi per sollecitazione in confessionale. È attingendo a questo materiale processuale che lo storico potrebbe riuscire a fondare meglio le proprie ipotesi sul fenomeno della confessione auricolare nel momento più critico della sua trasformazione, verificando così la fondatezza di un assunto ricorrente tra gli studiosi, cito qui da Brundage: nel periodo successivo del Concilio di Trento i teologi crescentemente videro il foro interno del confessionale come il luogo deputato piuttosto che il tribunale per castigare i reati sessuali che avevano luogo nella vita privata. Io mi attendo ottimisticamente che uno studio di questo genere possa impostare su basi non più astratte una storia sociale della confessione. Me lo conferma un lavoro recente di uno storico americano, Halixer, Sexuality in the Confessional, a Sacrament Profaned, uscito di recente per la Oxford University Press. Halixer ha studiato per la Spagna le sollecitazioni in confessionale e ha portato a conoscenza degli studiosi alcuni casi interessanti che io ottimisticamente mi aspetto e mi aspetterei di trovare anche per la diocesi senese, e cioè casi di questo genere. Confessori con un'impostazione culturale per l'interrogazione particolareggiata del penitente sono stati denunciati dalla penitente perché lei sospettava di dover essere sollecitata a commettere peccati carnali. Quindi c'è un'impostazione culturale, è evidente che la maggior parte o una buona parte dei processi per sollecitazione per sollecitazione a turpia poi effettivamente erano casi reali, però questo studioso americano porta la testimonianza di casi di malinteso in cui da una parte c'è l'esigenza di essere interrogati in dettaglio, dalla parte c'è l'impostazione culturale per interrogare in dettaglio, e con questo esito, con il risultato. il quadro sociologico dei due protagonisti. Sostanzialmente, adesso mi avvio a concludere, sì. In un contesto sociale determinato, quindi la mia ipotesi di lavoro, di cui sia adeguatamente ricostruita l'intensità dell'atmosfera confessionale, lo storico ha qualche probabilità di andare oltre la descrizione del campo dinamico che si instaura tra penitenti e confessori. La confessione in specie, cioè, a mio avviso, rientra tra le probabili tecniche adattate di un parroco. Il bisogno di essere interrogato dettagliatamente e in tale modo guidato appartiene a un particolare tipo di penitente i cui scrupoli morali sono stati suscitati dall'allarme allarmi della gerarchia, gettando gli animi nello sconcerto per il timore di incorrere nei peccati mortali della carne. Se questo scenario risulta corretto, altro va comunque aggiunto. Come ovvio, in ogni comunità l'intensità di un'atmosfera moraleggiante è destinata a fluttuazioni e dopo l'emergenza appare naturale un ritorno alla normalità. Nelle condizioni di un superamento dell'allarme, come verranno allora affrontati dai due protagonisti nel confessionale il sesto e il nono comandamento? Più precisamente, riprendendo un precedente quesito, qual è il contenuto pedagogico che assumono la confessione e la direzione spirituale per la costruzione della moralità in contesti diversi da quelli generati dall'emergenza morale in una fase di occupazione ideologica? Recupero per impostare una risposta alcune ripetute ammissioni dei corrispondenti dell'abate Violet, cui forse è opportuno dare un significato più generale. Quando viene lamentata l'inadeguatezza di un confessore a trattare delicati problemi sessuali, non dovremmo vedere nel fatto non tanto una deficienza individuale e locale, quanto il segnale generalizzato che i confessori ormai da tempo non interrogavano più in specie su sesto e nono comandamento e con il contenuto informativo, la costruzione della moralità attraverso la confessione, cioè, aveva assunto forme diverse, molto generiche? Non dovremmo cioè chiederci se il campo dinamico tra confessore e penitente non venga ormai caratterizzato da una pedagogia approssimativa e in negativo, che si limita alla condanna dell'impurità e all'esortazione alla castità? La pertinenza di questi quesiti appare indubbia. La storia della confessione, infatti, abbonda di dibattiti teorici ricorrenti sull'inopportunità che i confessori evitassero, sull'opportunità che i confessori evitassero con domande insinuanti di turbare i fedeli, istruendoli così in fondo su pratiche sessuali condannate, ma di cui lo stesso penitente ignorava l'esistenza. Il silenzio nel confessionale sul sesto e nono comandamento non fu un esito di una tendenza dottrinale forse mai assente, ma che a un certo momento, forse per esempio in Italia dopo Segneri, cominciò a intensificarsi. E non fu la fine dell'occupazione ideologica a rendere disagevole e sostanzialmente impossibile al parroco un controllo culturale totalizzante sui fedeli? La comparazione e il ragionamento analogico hanno riguardato due scenari che presentavano caratteristiche simili. Ho sostenuto che la costruzione della moralità in periodi di tensione morale potesse verificarsi attraverso la guida e i consigli particolari forniti dal confessore. Variando e normalizzandosi la tensione del campo dinamico tra penitente e confessore, alla confessione auricolare forse finì con lo svolgere un ruolo secondario nella costruzione della moralità. Questa finiva in effetti col ricadere sull'autocontrollo e la coscienza individuale. Grazie. Ringraziamo anche noi di Simplicio perché appunto ci ha costruito anche un'altra direzione di indagine.